Bentornati e Ciao a tutte, bentornate. ciao a tutti. Nuova puntata della Fuga del Gatto estiva e ci siamo dimenticati nelle scorse puntate, facciamo un po' schifo, Sì. di dirvi questa grande novità, cioè dovevamo anche bearcene un Sì, po'. infatti adesso ora ce la tiriamo un attimo, Ora scusate, pagherete. perché la Maria ha trovato questa sigla nuova e gli va reso credito, veramente, le va reso No. merito. Scusa, perché poi secondo me i nostri fan e le nostre fan saranno rimasti un po' Ma male di non sentire la sì, sigla solita. hanno detto: ma come? Ma allora, ma che succede? Visto come le serie televisive che mi cambiano la sigla, non è che mi cambi la sigla, Era le sigla estiva. questa, esatto, è la sigla estiva. Sigla estiva, e siccome siamo delle ragazze semplici, Sì, semplici. veramente semplici è la parola Sì, che più ci descrive. sì, la ragazza Insieme della. ad abbronzate, io direi semplici ed abbronzate è proprio Estive. ossimorico Siamo le per ragazze noi. della porta accanto Sì. e quindi vi abbiamo detto come sigla, abbiamo scelto l'estate di Vivaldi. Sì, siamo le Scusate. ragazze della porta accanto, se la porta accanto è a cassettoni di legno e decorata a foglia d'oro e con la maniglia, e allora siamo noi. Oppure la villa di Frankfurter Esatto. del Rocky Horror Picture Show. Oppure il castello di Ludwig. E quindi in quel caso siamo le ragazze della porta accanto e questa volta vi proponiamo così un inedito per noi, perché in realtà non lo è, ovviamente. No, scusa, ma fammi beare Ah, ancora un scusi, attimo della sigla, Sibei. No, perché cioè, vado un ce po' l'abbiamo veloce. buttata lì, però Sibei, dobbiamo. sì, Cioè, se lo Sibei. meritano. Sì, Vivaldi, Vivaldi. l'estate, le quattro Vivone. stagioni, ovviamente, ma banalità per banalità, però l'estate, secondo me, voi non ve No, l'avevate fa. mai goduto in questa versione veramente bellissima. È il terzo movimento, ovviamente, probabilmente il più conosciuto dell'estate, presto, e, però in una edizione che vorrei dare atto a tutti i componenti che l'hanno suonata, perché secondo me è un'edizione bellissima. L'ensemble si chiama Gli Incogniti e al violino solista c'è Amadine Bayer e poi c'è l'altro violino Alba Roca, l'altro violino Flavio Losco. Come alto c'è Marta Paramo, mi perdoni, non lo so, Tiorba, Francesco Romano, violoncello Marco Ceccato, alla viola Baldomero Barcella e al clavicembalo Anna Fontana. Lo volevo dire perché secondo me è una versione veramente bellissima. È bella, sì. L'ho Ovviamente detto. l'ha detto, quindi così un rendere omaggio alla seconda, una misina B, Sì. una messa in abisso per la Mari che si autocelebra, avendo scelto, si autocelebra e poi celebra chi l'ha suonata, quindi il massimo. Scusate. Perché di Vivaldi tutti sempre la primavera, ma accattatevi pure le altre stagioni, che comunque, boh, cioè, non è che adesso Madonna, ma questa questa. primavera, a me pure l'inverno mi piace un Boh, sacco. l'inverno. Vabbè. Che lo so che è una delle sue Non ne preferite. E parliamo. vabbè. Quindi, Ma ora parliamo d'altro, anche se non ci spostiamo di non ci tanto. spostiamo di tanto perché Tommaso Albinoni, Sì. ecco, il protagonista di questo è Tommaso l'autore. Giovanni, Tommaso veramente. Giovanni Zuan, insomma, per i veneziani così, autoctoni, nasce a Venezia l'8 giugno del 1671 e morirà nel 1751, sempre nella sua Venezia. È stato compositore e violinista italiano, ovviamente rientra nella stagione mu musicale del barocco, da lei, signora Mari, poco amato, Per niente. per niente. E, ecco, noi non l'abbiamo mai citato, non abbiamo, tutti inediti questi estivi, sono Perché state, sì. io mi sono sdata. Eh sì. Quindi, appunto, no, forse meno noto ai non addetti ai lavori, ma noto alla sua epoca perché, insomma, ha avuto un discreto successo già in vita. Ma tra l'altro, una puntata che tanto che vi abbiamo detto che la faremo e la faremo questo inverno per forza, sarà una puntata dedicata alla musica abusata, dove in realtà vi renderete Ah, sì. conto che Albinoni lo conoscete perfettamente perché è stato Senza sfruttato tantissimo saperlo. come sigle di Sì. trasmissioni televisive abiette e Sì. non, oppure come pubblicità, cioè, in realtà voi lo conoscete perfettamente, ma a un livello recondito, inconscio e non lo Ce sapete. l'avete già nella memoria interna. Sì. E, sì, lui appunto Ebbe una vita abbastanza interessante, artisticamente avventurosa, sposò una cantante d'opera, Margherita Raimondi, e fu anche grazie a lei che arrivò a Monaco negli anni 20 del Settecento. Sì, poi diciamo, Albinoni era un fortunello, ce lo possiamo dire? Di quelli no, come noi, non era, sì, come noi. Cioè non era uno di quelli che poverini ha patito tutta la vita, no, lui è andato, nessuno lo considerava. Bene. No, era fortunato, cioè, era nel barocco i musicisti in generale. Sì, però c'è stato chi, insomma, poraccio, cioè, vabbè, ha patito un po' di più, sì. Sì, parliamo dei castrati che sono poverini, vabbè, fortunati, ma c'avevano anche dei problemi a monte. Quelli, il problema era all'origine. No, Albinoni è nato da una famiglia ricca famiglia veneziana di mercanti di carta, e poi in realtà ha avuto diverse cose che l'hanno reso un ragazzo fortunato, a partire dal fatto che lui di fatto componeva non perché ne avesse bisogno economico, ma per passione. Diletto, è sì. Hobby. Poi si sposa la cantante e vanno. E chi è a che Monaco se lo poteva permettere al tempo? A Monaco, tra l'altro, l'elettore di Baviera, Massimiliano Emanuele II, a cui Albinoni dedica 12 concerti, lo invita appunto a dirigere l'opera durante le celebrazioni per le nozze di Carlo Alberto di Baviera con Maria Amalia d'Asburgo, figlia dell'ultimo imperatore Giuseppe I. E in tale occasione compose l'opera I Veri Amici e la serenata Il Trionfo d'Amore, molto nota tra l'altro. Diciamo che oltre alla musica concertistica barocca, per cui ha la fama che ha, sono molto famosi appunto i suoi concerti per oboe. E qui, sì, che è quello che poi vi volevamo far ascoltare oggi. Abbiamo scelto degli estratti perché chiaramente sono miliardi di concerti di Probo e di Albinoni, però ne abbiamo scelti alcuni, una selezione di un CD in particolare che è uscito, e poi dopo vi diremo in particolare di quali concerti si tratta e da chi sono stati eseguiti. Ma insomma, diciamo che lui era molto, Albinoni era particolarmente attratto dall'oboe, e che fra l'altro in quel momento storico era uno strumento relativamente poco usato in Italia. E tant'è che Albinoni fu colui che scrisse il primo concerto per oboe in Italia, chiaramente in Germania. Nel frattempo Telemann e Handel avevano scritto altre cose, insomma. Anche Mozart amò molto l'oboe. Sì, però lui dopo, chiaramente, esatto, lui fu un po' il l'apripista. Sì, l'apripista, e beh, non a caso, perché in effetti è uno strumento che ben si addice allo spirito, secondo me, di Albinoni. È molto malinconico, però non troppo, non è tanto triste. Eh no, cioè, c'è un qualcosa, un sottofondo di malinconia che l'oboe ti lascia addosso per forza, ma quella tristezza non da abisso, appunto, che altri invece ci hanno fatto ascoltare. Mi piace sempre molto quella cosa che dice Salieri in Amadeus di Mozart, quando sente la prima volta il concerto, no? Che non ha visto ancora Mozart in faccia, lo sta cercando alla festa, e a un certo punto l'orchestra comincia perché c'è il cardinale, devono cominciare, però lui è sotto i tavoli con la tipa, ovviamente, e lui dice: quella nota sospesa, quella nota di oboe rimaneva sospesa nell'aria come se fosse, no, l'alito di Dio che la teneva, dice, quella nota, quell'unica nota che rimaneva sospesa. Tra l'altro è un concerto stupendo, ora non mi viene esattamente il momento, però mi sembra la sua, insomma, vabbè, poi ve lo ridirò, però ecco, mi rimane sempre in mente rispetto all'oboe questa frase di Salieri. Ma sì, perché l'oboe effettivamente è uno strumento particolare. Io anche lì magari sarebbe bello farci una trasmissione solo sull'oboe, per far sentire come vari musicisti ne hanno declinato le sfumature, perché poi in realtà ha un carattere proprio suo, da cui non si può prescindere, però ognuno è riuscito a tirare fuori qualcosa da sto legno. E poi, siccome ho detto veramente la cosa, adesso devo dire la trashata, perché ovviamente devo fare pari, e nella nostra amata serie Mozart in the Jungle la protagonista fa l'oboista. Ah, ecco, c'è il primo oboe, ce lo vogliamo scordare. Non faccia finta di niente, signora, no, Maria. Non è che adesso la guardo solo io, perché sennò mi sembra che no, guarda la serie. Figuriamoci, che io mi devo documentare, non è che... Certo. E quindi ecco, noi così l'oboe ce l'abbiamo nel cuore, per cui vi proponiamo questo concerto per oboe. Io volevo anche aggiungere ultima cosa su Albinoni, dettaglio marginale rispetto a tutta la sua vita, però è importante da sapere che ad esempio Gran parte dei lavori di Albinoni, perché in realtà c'è rimasta tantissima roba, tant'è che anche solo i lavori per Oboe ce n'è milioni, però ce n'è rimasti molto meno rispetto a quelli che ha fatto, che ricordo lui ha fatto tutto sommato perché voleva farlo, non perché ne fosse, famose, non perché qualcuno gliele commissionasse. Esatto, famose 50 opere liriche quasi tutte andate perdute, no? Andarono, ma non solo quelle, cioè andò perduto gran parte del suo lavoro durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la distruzione della libreria di Stato di Dresda da parte degli alleati, del bombardamento degli anglo-americani. Gli americani fanno sempre i danni, ora, ma ti pare devi bombardare la biblioteca? Durante la famosa distruzione della libreria di Stato di Dresda, dove vabbè, ora di là, insomma, il bombardamento di Dresda, chiaramente si aprirebbe un capitolo dove, certo, la libreria di Stato non è l'unica cosa su cui piangere, anzi, forse, chissà. Però ecco, anche questo ci hanno tolto, perché effettivamente gran parte dell'opera di Albinoni fu completamente distrutta. Se andate a vedere nella proprio tutta l'opera, l'elenco delle opere di Albinoni, vedete che la maggior parte non sono arrivate fino a noi grazie a questo fantastico intervento. Allora grazie anglo-americani, come al solito, cafoni che non siete altro, accidenti a voi. Poi non mi venite a dire ma noi sarà lì per no, cioè tanto ogni volta fate così, ora non diamo la colpa ai nazi. La sua musica strumentale attrasse fortemente l'attrazione di Bach, leggevo, che scrisse almeno due fughe su temi di Albinoni e usò i suoi bassi per armonia, basso continuo, come esercizio per i suoi studenti. Quindi anche Bach lo ammirò. Sì, ecco, sì. Le sue opere appunto furono sempre considerate all'altezza di altrettanti famosi compositori contemporanei come Corelli e Vivaldi. Allora, Oboe, sono due in particolare in questa esecuzione, Stefan Schilli, credo si dica così, e Giovanni De Angeli, e Stuttgart Garmorchester è l'orchestra, Nicole Matt come direttore. Alla prossima, ciao ciao! Ciao.

Thank you. Thank you.